Radio 3 Lezioni di musica. Giovanni Bietti. Il quartetto Opera 95 di Ludwig van Beethoven. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti a questa nuova lezione di musica dedicata ai quartetti di Beethoven e parliamo oggi del quartetto Opera 95, il cosiddetto quartetto serioso, lo stesso Beethoven lo chiamò così, che fu probabilmente scritto nel 1810, fu pubblicato poi nel 1816, quindi si è molto discusso sulla data di composizione, ma è molto probabile che sia del 1810, quindi un solo anno successivo al quartetto Opera 74 di cui abbiamo parlato ieri. Bene, nessun dubbio, questo è il più radicale quartetto e probabilmente anche la più radicale composizione che Beethoven avesse scritto fino a questo momento, al punto che, scrivendo ad un editore per proporgli la pubblicazione del quartetto, gli disse: questo quartetto è scritto per una cerchia raffinata di intenditori e non dovrà mai essere eseguito in pubblico. E in effetti è un brano di una concentrazione, di una complessità tale da sfidare davvero l'ascolto pubblico. Non è forse un caso che sia uno dei meno eseguiti, il serioso, anche se sicuramente è uno dei più belli, dei più misteriosi, dei più ricchi di idee. Qual è la novità che Beethoven ci presenta con questo brano? Beh, è il tentativo di rendere il tutto essenziale, compatto. Voi pensate che l'intero quartetto Opera 95 in una media esecuzione dura 20 minuti, cioè dura molto meno della maggior parte dei grandi quartetti di Mozart e di Haydn e dura meno della metà di quartetti come ad esempio l'Opera 59 numero 1, il primo Rasumovsky, quindi c'è questa enorme concentrazione. È un brano naturalmente sperimentale, una sorta di laboratorio, dove abbiamo la netta sensazione che Beethoven voglia eliminare tutto ciò che è superfluo. Quindi tutto ciò che costituiva il centro del grande stile eroico, le grandi transizioni, i grandi crescendi, queste enormi arcate di tensione drammatica qui scompaiono e questi elementi sono sostituiti invece da un gioco raffinatissimo di contrappesi, di piccoli scarti, di piccoli spostamenti. Abbiamo parlato la settimana scorsa del primo movimento del Rasumovsky numero 2, in cui Beethoven usa questo scarto verso l'acuto e poi lo spostano. Ecco, fa questa particolare scalino ascendente. Bene, nel quartetto Opera 95 noi troviamo lo stesso aspetto, cioè abbiamo... E poi diventerà... E più avanti Beethoven lo sintetizza. Sentite? Sentite? Quindi con questi scarti rapidissimi, tecnicamente sono scarti di semitono, che spostano immediatamente la prospettiva del brano e quindi gli danno questa rapidità di evoluzione incredibile. Sentirete come questi semitoni toccano continuamente il percorso del brano di questo primo movimento. Ad esempio abbiamo... Sentite questi scarti fulminei improvvisi che eliminano la necessità delle transizioni. E questo è qualcosa di cui Beethoven farà tesoro, trasformerà in una ricchezza ancora più sbalorditiva nell'ultimo periodo. Le dimensioni del brano sono talmente raccolte che noi possiamo permetterci adesso di ascoltare in un'unica arcata che dura circa 3 minuti l'esposizione, lo sviluppo, non c'è ripetizione dell'esposizione e addirittura tutta la ripresa fino al secondo tema. Vi dico solo che nella esposizione il primo tema arriva dopo 22 battute, nella ripresa arriva dopo 8 battute, perché nell'esposizione c'è un piccolo episodio lirico fra il primo e il secondo tema e nella ripresa Beethoven lo elimina, non ce n'è più bisogno. Sentite la concentrazione di questo stile. Primo movimento. Pausa. Tutto questo sparirà nella ripresa. Avete sentito lo scalino? E adesso torna nella tonalità principale. Episodio lirico. Adesso di nuovo il tema, sentite come lo accorcia. E questo è il secondo tema. Meraviglioso. Sentite il canto della viola. Si staglia il primo violino. Tutto questo episodio questa linea che corre attraverso tutti gli strumenti. Sentite adesso come rientra drammaticamente. Attenzione al semitono, eccolo. Una sorta di ripiegamento. Sta finendo l'esposizione. Adesso ci concede semplicemente la ripetizione di quello scarto. Eccolo. Non c'è nulla di superfluo, non ci sono collegamenti, non ci sono divagazioni. Finita l'esposizione. Sentite quanto è compatto lo sviluppo. Adesso sta già arrivando la ripresa e, come sentirete, è estremamente contratta. Eccola. Questo è già l'accenno del secondo tema. Non è ancora nella tonalità principale. Sentite come scivola. Eccola. Attenzione allo scarto. Sentito, no? Questi scarti improvvisi che danno vita a questo stile. Bisogna dire che una concentrazione di questo tipo Beethoven non la sperimenterà più, neanche nelle ultime grandi composizioni, anche se comunque qualcosa di questo principio, di questa idea così furiosa, questa furia iconoclasta nel distruggere le caratteristiche del suo grande stile eroico, ebbene, qualcosa di questa logica tornerà negli ultimi quartetti. Non c'è dubbio che questa sia veramente una tappa essenziale, fondamentale, centrale nel pensiero beethoveniano. C'è comunque una radicalità del genere, una volontà di tagliare tutto ciò che può sembrare appena ridondante. Lui non la sperimenterà più. Le ultime composizioni sono un po' invece la riuscita assoluta e miracolosa di conciliare l'espansione lirica e questo pensiero invece così ellittico, così contratto. Di questo raggiungimento delle ultime composizioni, appunto, il quartetto opera 95 è sicuramente un precedente fondamentale. Questo quartetto ha un secondo movimento invece molto contrastante rispetto a questo principio. Questo secondo movimento è uno dei colpi di genio beethoveniani più sbalorditivi, secondo me. In qualche modo assomiglia a qualche aspetto in comune con un adagio di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, il secondo movimento del quartetto opera 59 numero 3, con quel carattere, ricordate, un po' esotico, singolare, questo andamento ritmico così scandito, quasi schubertiano ante litteram. Ma questo sembra un po', questo brano, il secondo movimento invece dell'opera 95, sembra voler portare avanti la stessa idea in un certo senso, renderla ancora più visionaria, ancora più compatta. Anche qui il violoncello comincia non pizzicato ma comunque con un ostinato. E poi c'è un bellissimo episodio lirico che sentiremo. E l'idea di Beethoven qui è di costruire una forma stranissima, senza precedenti, perché noi abbiamo un tema meraviglioso di adagio a cui poi si segue un fugato, un vero e proprio fugato, e poi dove noi ci aspettiamo la ripresa del fugato arriva invece, scusate, la ripresa dell'episodio iniziale, arriva la ripresa del fugato e l'episodio iniziale viene ripreso successivamente. Quindi la forma ha questo curiosissimo andamento a specchio, è A, B, e poi BA. Questi giochi di inversioni li abbiamo un po' esaminati soprattutto appunto nell'adagio del quartetto opera 59 numero 3, ma senza parlare eccessivamente vi faccio sentire questo meraviglioso movimento. Sentiamo tutta la prima parte fino all'ingresso del secondo fugato, quindi A, B e l'inizio della seconda B. violoncello. Adesso sentite come si espande lentamente. Questa sospensione miracolosa. Adesso la ripete. Sentite, sta finendo l'episodio e adesso il fugato. Viola. Secondo violino. Violoncello. Primo violino. Sembra fermarsi su questa strana tonalità. Sentite il violoncello che riprende l'inizio. Questi misteriosi accordi negli altri strumenti. Stiamo andando verso la ripresa. Adesso si ferma. Cosa riprende? Sentite che ha ripreso il fugato. Secondo violino. Violoncello. Qui si stringono un po' le entrate, sentite? Ebbene, questo naturalmente prosegue, arriveremo alla ripresa del tema iniziale, cioè finalmente il violoncello nella tonalità principale suonerà. Ma io volevo farvi sentire di questo movimento, che veramente è uno dei punti più alti dell'intera produzione beethoveniana, la meravigliosa coda, dove lui prende alcuni elementi dell'uno e dell'altro tema, del tema del fugato e del tema principale, quello iniziale, e li sospende in una sorta di giochi incantati, di scivolamenti, di girotondo veramente celeste, meraviglioso. Sentiamo direttamente questa coda. Adesso sentite il tema del fugato. E adesso si ferma, sentite. Sale leggermente e diventa la coda del primo tema. Non si ferma. l'ultima espansione, sentite, adesso il violino scende, invece il violoncello sale. Sospensione. Adesso lo aggancia allo scherzo. Questo, sentite? E qui attacca lo scherzo. Allegro assai vivace, ma serioso, appunto è quello che ha dato questo soprannome al quartetto. Ebbene, questo adagio stupendo che abbiamo sentito, purtroppo non interamente, ma sapete che sul sito potete ascoltare questi quartetti di cui stiamo parlando, e avete sentito anche come in questo adagio veramente sia già prefigurato il mondo espressivo di Brahms, molto nettamente, secondo me. Vi ho detto nella scorsa puntata come questa fase intermedia dal 1809 al 1815 più o meno sia senza dubbio il punto di partenza del romanticismo, il punto a cui si ispira prima di tutti Schubert e poi gli altri grandi romantici. Bene, al di là di questa parentesi sublime, il terzo movimento ci mostra di nuovo il pensiero ellittico, il taglio, l'essenzialità, la volontà beethoveniana nettissima di eliminare ogni ridondanza. Voi sapete che una forma di danza, un minuetto, uno scherzo, cioè quello che normalmente noi troviamo come terzo movimento di un brano ciclico classico, quindi di un quartetto, ma anche di una sinfonia, anche di una sonata, è organizzata in un minuetto, uno scherzo, poi c'è un trio centrale e poi c'è di nuovo la ripetizione del minuetto, dello scherzo. In questo caso Beethoven utilizza di nuovo la forma che aveva sperimentato con il quartetto opera 59 numero 2, cioè la doppia ripetizione del trio, quindi la forma diventa A, B, A, B, A, ma l'essenzialità del brano in cosa sta? Che la danza iniziale non comincia dall'inizio, ma comincia dalla seconda parte. Cioè chiaramente il tema di questo scherzo è... questo tema, no? Che comincia nella tonalità principale. Ebbene, questo non è l'inizio del brano. Beethoven comincia da metà, ossia ci fa sentire il tema, ma ce lo fa sentire solo come ripresa. Per capirci, scusate, è una cosa un po' complessa, ma una forma di danza è una forma sonata in miniatura. Abbiamo un tema iniziale, ci spostiamo in un'altra tonalità, finisce la prima parte, che in genere si ripete, la seconda parte comincia dalla nuova tonalità e torna alla tonalità principale, in genere riprendendo il tema. Bene, Beethoven ci scrive solo la seconda parte, elimina completamente la parte iniziale, elimina una ripetizione, una ridondanza, ed è un esperimento radicalissimo. Quindi il brano comincia con delle dissonanze, ma non è un'introduzione, è uno sviluppo. Immaginate l'idea beethoveniana. Infatti la terza ripresa, vi ho detto la forma è A, B, A, B, A, la terza A comincia dal tema principale, elimina anche lo sviluppo, questo pensiero ellittico, questa concentrazione estrema, e come sentirete il trio invece al contrario ha un carattere opposto, vagante, e funziona ancora una volta per piccoli scarti improvvisi, piccoli scivolamenti che abbiamo visto nel primo movimento. Credo che la spiegazione sia assolutamente complicata, ma non preoccupatevi, l'ascolto di questo brano chiarirà tutto quello che vi ho detto. Sentite, è sospeso, è uno sviluppo. Adesso inverte il movimento, ascendente, discendente. Ed ecco il tema principale. Qui siamo nella tonalità principale. Ripetizione, sempre solo della seconda parte. Tema. Ripetizione. attenzione, sta entrando il trio, sentite come entra con uno scarto. E qui invece è cantabile, sospeso. Però non si sviluppa. Nuovo scarto. Sentite come torna allo scherzo. Sentite, no? Di nuovo dallo sviluppo. Questa volta non avremo neanche la ripetizione, cioè soltanto una volta viene esposto e, come vi ho detto, l'ultima ripresa comincia dal tema. Avete sentito il modo in cui questo scarto improvviso, che guarda caso è... cioè lo stesso scarto che lui ci aveva presentato all'inizio del primo movimento. Vedete il modo in cui, in maniera sottilissima, i movimenti sono collegati fra loro. Abbiamo giusto il tempo di parlare del finale, un finale anche in questo caso estremamente compatto, che addirittura in pochissime battute, in una durata di circa 4 minuti, concentra tre diversi tempi, perché comincia con una introduzione lenta, un larghetto espressivo, brevissimo, solo 7 battute, immaginate. Poi c'è un allegretto agitato e poi c'è una coda, allegro, il tempo diventa ancora più vivace, e l'idea di Beethoven è che comunque tutta questa oppressione, questa concentrazione estrema, alla fine del quartetto si dissolva completamente. Quindi la coda è rapidissima, brevissima e ha questo carattere luminoso. Esattamente come succede negli stessi anni nell'ouverture dell'Egmont, e guarda caso nella stessa tonalità, e finisce con questa improvvisa apertura in maggiore. Ma sentiamo senz'altro l'inizio del movimento, larghetto espressivo e poi allegretto agitato. Questo carattere appena lamentoso che viene mantenuto nell'allegretto. Sentite che arriva immediatamente. Eccolo. Purtroppo non possiamo sentire tutto l'allegretto, volevo farvi sentire il carattere di questo tema. Abbiamo giusto il tempo di sentire questo scarto improvviso, questa coda misteriosa, allegra, molto leggermente luminosa, che cambia di colpo il carattere dell'intero quartetto. Un esperimento, come vi ho detto, che Beethoven negli stessi anni fa nell'ouverture dell'Egmont e che porterà a un risultato veramente sublime e inarrivabile in uno degli ultimi quartetti, l'opera 132, di cui parleremo esattamente la prossima settimana. Questa è la coda dell'ultimo movimento del quartetto opera 95. Giovanni Vietti vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Thank you. Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare il quartetto Opera 95 di Ludwig van Beethoven dal sito di radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.